24 mattino. Ah, poi ho visto Grasso che ha presentato questo nuovo partito di sinistra. Meno male, perché ce n'era proprio bisogno. Però guarda che è difficile trovare un nome per un partito, Lo so, certo, infatti. Per esempio SSM, sinistra più a sinistra dei Mancini, oppure PDSR, Partito Democratico senza Renzi. Poteva essere Liberi e Grassi, che così c'era anche dentro il nome del capo fondatore. Comunque questo partito, ho capito che si chiama Liberi e Uguali, sì. Che sembra, posso dire? No. In nome di un assorbente. Ma non è vero. La perfidia di Luciana Littizzetto, che però continua ad alimentare un'enorme involontaria campagna sul tema del nuovo partito di Grasso, cosa deve fare, cosa non deve fare, cosa deve fare l'Italia se non uscirà una maggioranza dalle urne, il mito della prorogatio di cui abbiamo già parlato ma parleremo ancora, cioè che il governo Gentiloni resti lì senza neanche dimettersi, come se il voto neanche ci fosse. E poi ovviamente le parole di Berlusconi, le polemiche sul fascismo vecchio e nuovo che tornano, tante cose e tante spigolature interessanti che voglio leggervi, la testimonianza di Zonin in Parlamento, non ricordo il caso di Fiorello straordinario che riesce a dimostrare al fisco di non essere un'impresa e quindi di non essere sottoposto all'IRAP. Ma quante ve ne devo leggere oggi? Tante. L'Alabama che cambia verso all'America. Però voglio partire, come sempre, da un prologo prima delle prime pagine e oggi lo affido totalmente al maestro Gramellini, prima pagina del Corriere della Sera. Trovo illuminante, e sarcasmo, ve lo dico, la decisione della scuola milanese Italo Calvino di chiamare la festa di Natale grande festa delle buone feste, tra virgolette, per non urtare la sensibilità di chi non festeggia Natale. Ispirandomi a questo fulgido esempio di apertura, smetterò di festeggiare il mio compleanno, scrive Gramellini, perché mangiare una fetta della mia torta preferita in presenza di altre persone sarebbe un'ingiuria nei confronti di quelle che non sono nate nel mio stesso giorno. E che sono la maggioranza, temo. Grande festa delle buone feste è un primo passo, ma ancora non basta. Intanto la parola grande discrimina con evidenza le altre feste. Si è calcolato quale enorme danno può produrre nella psiche di un bambino la decisione arrogante, tipica della mentalità competitiva occidentale, di stabilire una gerarchia fra le feste presunte grandi e le feste medie e medio piccole, le festicciole e non sia mai i festini. Ma è la parola festa in sé a suonare irrispettoso verso chi non ha niente da festeggiare. Si pretende di imporre, scrive Gramellini, anche a costui una festa, anzi la grande festa, anzi la grande festa delle buone feste. E perché mai non dovrebbero essere buone di grazia? Se uno volesse dire feste cattive, dovrebbe sentirsi escluso, magari additato come diverso? Esiste un modo infallibile, conclude Gramellini sul Corriere, di non offendere la sensibilità degli altri ed è smettere di averne una propria. Ci stiamo arrivando. Nel mondo slavato dei non lunghi e delle non identità, l'unica soluzione possibile è la negazione perpetua. Non auguri di non buone feste, di non Natale a tutti. Vabbè, signori Gramellini, cult contro questo buonismo della cippa. Scusate, uso termini grevi, ma non c'entra niente la religione, non c'entra niente il credo, non c'entra niente la fede, non c'entra nulla nulla. È Natale, non è la grande festa delle grandi feste del cavolo. E quindi ci uniformiamo a quello che dice Gramellini e difenderemo, a prescindere da qualunque battaglia ideologica, l'idea che il Natale è Natale. Voi dite, ma è una banalità? No, di questi tempi diventa una battaglia civile. E allora andiamo con le prime pagine. Il Giornale. Il dossier sui rapporti fra i grillini e i sabotatori. Sembra un titolo di quelli, no, dei giornali degli anni 40. L'allarme, i 5 Stelle proteggono gli antagonisti che bloccano con la violenza il gasdotto in Puglia. E poi un fondo condivisibile, almeno nel titolo, di Roberto Chiarini, il fascismo si combatte studiandolo. E poi ovviamente Berlusconi resta, Gentiloni, eccetera. La destra si spacca su Gentiloni e la scelta di Repubblica, secondo cui è la destra che si spacca su Gentiloni, e questo sicuramente è vero. Infatti Berlusconi senza vincitori dopo le elezioni resti lui, Mattarella ci farà rivotare ad ottobre. Insorge la Lega, non tradiremo gli elettori e Renzi, avremo i numeri per non fare patti. Ma allora io dico solo una cosa logica, amici di Repubblica: se si spacca la destra, si spaccherà anche la sinistra. Cioè, l'idea che il voto non conti non umilia un polo, ma li umilia tutti e tre. Ne abbiamo tre, che uno vinca. E la foto di prima pagina grande di Repubblica: missione militare italiana in Niger controllerà la rotta dei migranti verso l'Europa. È importante questo, eh? In prima l'ho visto solo qui. Salma Hayek, il suo corsivo. Weinstein, il mio mostro per anni. La famosa attrice americana racconta le violenze subite ai tempi di Frida, il film su Frida Kahlo. Avvenire, editoriale da prendere per chiunque abbia questo chiodo. Domenica riposo, una civiltà non solo cristiana. Lo firma Pierangelo Sequeri. E il titolo: male mediterraneo, dopo aver fatto guerra alle ONG, ora la Libia si ritira dai salvataggi in acque internazionali. Corriere della Sera: Berlusconi e il voto, senza vincitori continui Gentiloni. E poi il fondo di Paolo Mieli: se i giudici puniscono solo i vinti. È un fondo interessante, un po' controcorrente sulle condanne che sapete dei tribunali internazionali. Il fatto: per i sexy corsi le aspiranti toghe erano costrette a pagare nero, ma ne esce fuori uno al giorno su questo caso, mi fa impazzire, lo seguo con molta attenzione. L'Apo serve il risotto dell'avvocato, il fogliettone interessante, e il fondo di Travaglio, la volpe di Rignano, e ovviamente non ve lo dico neanche su Renzi. Il Foglio: in Alabama il disastro politico di Trump, e centrodestra per aria, il fondo che racconta del litigio fra Berlusconi e Salvini. Il Giorno: l'Italia spreca 70 miliardi, la foto di un cantiere con tutte le bandiere, lentezze burocratiche, pochi progetti in tre anni, pensate, abbiamo speso solo il 3% dei soldi assegnati all'Europa. Il Manifesto: a bassa quota sulla minaccia agli scioperanti Ryanair. Il Mattino: senza vincitori resta Gentiloni su Berlusconi. Il Messaggero: stretta sui controlli anti-evasioni. E poi il Sole 24 Ore: Svizzera, indovinate, questa è una notizia stupenda, torna il segreto bancario in Svizzera, ma non se ne va mai. Mentre invece è importante il titolone di pancia, titolo centrale della pagina: tassi americani rialzo, questo riguarderà anche noi. Il Tempo: tribunali senza sicurezza e giudici temono per la vita. E poi cacciatelo, la foto di prima contro l'arbitro di Lazio-Torino. La Gazzetta dello Sport: Gigio piange, il Milan ride, parleremo ancora di lui. La Stampa: ingerenze russe, ora interviene l'Europa. La Verità: il nuovo governo è già vecchio, ci rifilano Gentiloni, Belpietro. E infine Libero: lo Stato dalla paga a 600.000 immigrati. La foto centrale: Emiliano non vuole il gas perché gli ricorda Auschwitz. Avete visto quanta cosa da discutere? Ci fermiamo ancora e torniamo fra poco. Curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. Rieccoci, siamo qua in onda, sono le 7:34 minuti e noi siamo nel pieno della rassegna. Entriamo ora con le spigolature, le letture, i suggerimenti. Per esempio, Woody Allen è tornato al grande melodrammone, un film, La ruota delle meraviglie, che riprende il suo spirito drammatico, non quello comico, un bel film, ma non è questo. Vi dicevo che la cosa che più mi colpisce oggi, ovviamente, è questa vicenda della prorogazio. Allora, ci sono tante cose da scrivere, ma bisogna partire da Berlusconi al Corriere. Infarinatura di base, per chi non lo sapesse, Berlusconi va ospite di Bruno Vespa e ovviamente nel suo stato euforico ne dice tante. I titoli sono divisi fra la battuta su Mussolini: non era un dittatore, l'abbiamo sentita. Vespa gli dice: bah, insomma, era un dittatore. Lui dice: scherzavo, lo faccio apposta per farmi attaccare, e va bene. Poi c'è la rottura sulla giustizia in un voto parlamentare in cui la Lega dice: no, non voto per questo provvedimento che secondo me è troppo permissivo e manda salvi alcuni indagati. Questa è la cosa importante. E poi c'è questa dichiarazione bomba: senza maggioranza resta Gentiloni. Ah, ipotesi che vi do di interpretazione. Berlusconi lo dice perché tranquillizza l'elettorato moderato e capitalizza consenso ai danni della Lega. B, c'è un'idea di sottogoverno per cui, malgrado Berlusconi sia in lizza con il suo centrodestra per vincere e abbia tutte le carte per farlo, non solo non vuole tranquillizzare, ma ha sempre un piano B, cioè l'idea che resta una maggioranza. Prima spigolatura, sapete a chi piace questa idea? Libero, pagina 6, Elsa Fornero. La verità, tifo per un governo Renzi Cavaliere. E il partito del bis. Monica Guerzoni e Dino Martirano, il Corriere, pagina 3, i padri nobili del PD, quelli rimasti, dico io, poi i centristi della sinistra, cresce il partito del bis a Gentiloni e gli ex DC sognano di andare alle urne con una lista intitolata al premier. Spigolatura, Violante è l'uomo giusto per il governo e suscita consensi. Renzi deve dire sì. E quindi vedete che c'è molto panico. Ma allora qua si collega un tema. Ricordate lo Ius Soli, un giorno sì, un giorno no, ora è un giorno ni, sembrava no ieri, no definitivo non si fa, ma il problema è che il destino dello Ius Soli è legato proprio alla prorogatio, già perché il governo, secondo la tesi che viene attribuita a Mattarella, non può rischiare la sfiducia su questo provvedimento. E quindi, per poter fare la prorogatio, non bisogna votare lo Ius Soli. Allora, tra i Dem, cioè la maggioranza del Partito Democratico, voglia di un blitz per votare come ultimo provvedimento della legislatura questa norma, questa legge, e ma i renziani frenano per questo motivo. E allora ecco che quali sono i calcoli, lo leggo dal Corriere, il pezzo di retroscena di Maria Teresa Meli, che dice lo Ius Soli potrebbe essere votato dalla sinistra, che ha già dichiarato di farlo, la sinistra di Grasso, si allontaneranno dall'aula alcuni parlamentari dei 5 Stelle, si allontanerebbero se si arrivasse al voto, che sono a favore del provvedimento. Ma la verità, scrive la media, è che sui numeri non c'è certezza. Si gioca troppo sul filo e il Presidente della Repubblica ha già fatto capire che Gentiloni non deve essere sfiduciato, altrimenti non potrebbe continuare a guidare il governo nella prossima legislatura nel caso che dalle urne non uscisse una maggioranza. Per questa ragione il Presidente del Consiglio, che pure il mese scorso non aveva escluso la possibilità di impegnarsi con gli Ius Soli, non vuole tentare l'avventura. Avete capito quanti fili di relazione legano la politica, le scelte, le nostre vite? E anche per questo pesa una delle cose dette da Vespa, che non arriva ai titoli, ma io vi sottolineo perché bisogna saperla. Berlusconi gli ha detto si voterà in autunno, quindi dando già per scontato che potrebbe esserci questa impasse, la prorogatio e un nuovo voto. Però se i sondaggi fossero quelli che sono, in realtà, siccome c'è un forte meccanismo premiale nel Rosatellum, se un polo arriva più o meno al 40%, grazie ai collegi nominali, può avere la sua maggioranza. Allora, da settimane si discute di legalità, inchieste e così via. Appalto Expo, abuso d'ufficio, il sindaco di Milano si trova in difficoltà, cambia il reato contestato, puntava a essere prosciolto e invece finisce sotto esame della magistratura per il famoso appalto della piastra, lavori per 4,3 milioni di euro. Cambia il reato ipotizzato, scrive Oriana Liso su Repubblica, ma non cambia la sostanza. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta della Procura Generale su Expo. I legali attaccano, è una persecuzione, ma questa vicenda è come dire importante. Allora Mussolini, la frase di Berlusconi su Mussolini, non era un dittatore, si inscrive in questo filone. C'è un grave ritorno del fascismo oppure non c'è? Un parere totalmente controcorrente, il giudice Salvini, ma sapete chi è? È il giudice che ha indagato su Piazza Fontana, è il giudice che ha indagato su Ordine Nuovo, il giudice come dire, di sicura Fede Democratica, però ha fatto anche l'indagine su Ramelli, ragazzo ucciso di destra negli anni di piombo. Ebbene, quindi una persona interessante, libera, controcorrente, dice non c'è nessun allarme fascismo. Attenzione, secondo me c'è la paura della sinistra per la perdita dell'identità e il bisogno di recuperare l'antifascismo come valore di garanzia, di identità, di rassicurazione. E va bene, è interessante tutto questo. Invece vi dicevo dell'Alabama, Corriere, pagina 15, bisogna fare un salto in Alabama perché l'America e l'Italia mai come in questo momento sono collegate, anche lì c'è il rischio di nuovo fascismo per Trump, così si dice, e forse questo movimento di paura porta alla vittoria del candidato democratico e alla sconfitta del repubblicano Moore. Come è stato sconfitto? È interessante da questo punto di vista, avete sentito forse le belle analisi di Platero su Radio 24, ma il pezzo di Sarcina sul Corriere di oggi accentua questa analisi politica, diciamo, di vittoria, di rivincita della sinistra. Sconfitto il candidato di Trump, rivincita delle donne di Me Too, una specie di se non ora quando americano, e soprattutto la mobilitazione obamiana, così viene definita, degli afroamericani che sono andati in massa a votare per il candidato democratico. Signori, che vinca un democratico in Alabama, nell'Alabama bianca e conservatrice, è come se, che ne so, a Bergamo vincesse un sindaco dei disobbedienti. Ecco, dobbiamo fare un paragone un po' hard per dare un'idea. Allora, la Palmarini sul Sole 24 Ore a pagina 9 riflette su questa idea della prorogatio, sempre copyright di Polito, e riflette così, cioè dice: lo sdoganamento di Berlusconi, sto leggendo dal Sole 24 Ore, da pagina 9, è un suggello che mancava, l'endorsement politico che blocca un ritorno alle urne subito. Quella del Cavaliere di ieri è stata una sostanziale benedizione politica alla proroga di Paolo Gentiloni. E in effetti non solo è una soluzione corretta, ma anche l'unica, nel senso che se dopo il voto del 4 marzo non ci dovesse essere i numeri per formare un nuovo governo, è evidente che resta in carica quello attuale. Ma tutti questi calcoli, però, il ragionamento di analisi della Palmarini è perfetto, partono dal se. E questo se però non è sicuro. Dicevamo di un film particolare, forse di quelli de sé che nessuno andrebbe a vedere, però voglio citarlo dal Corriere. È un film molto bello, La poltrona del padre. Voi direte: ma perché ci segnali i film oggi? Perché i film a volte raccontano lo spirito. Ebbene, questo film è la storia di due ebrei ortodossi che devono fare un trasloco e sono ammalati di un morbo di cui posso intuire la gravità, che è quello di non buttare niente, la sindrome dell'accumulo la chiamano, non so se ce l'avete anche voi, la sindrome di Collier. Ebbene, loro ce l'hanno in una proporzione drammatica, vivono in una casa totalmente fatiscente, piena di oggetti, di robe, di materiali, e l'idea bella di Alex Lore e di Antonio Tibaldi è stata quella di raccontare questo trasloco a Brooklyn, che è una grande riesumazione di memoria. Allora, perché dici, in mezzo a quello di cui parli, ci parli di questo film? Perché mi sembra un contrapasso per capire il tempo che viviamo, cioè viviamo nel tempo superficiale, orizzontale, dei social network, dei tweet, tutto è senza passato, senza memoria. Forse questi due ebrei ortodossi sono parte della nostra identità, forse sono quello che ci manca. Dobbiamo recuperare anche noi qualcosa che abbiamo accatastato e che però è molto importante. Casaleggio sul Natale, continua questa campagna dei 5 Stelle a favore dei negozi aperti o chiusi sulla festività. Sapete la posizione della Chiesa, vi ho detto del Fondo di Avvenire, ma c'è un pronunciamento, sapete che è raro, di Casaleggio, proprio di Davide Casaleggio, che è sceso direttamente in campo con un post sul Movimento. La soluzione non è restare aperte tutta la settimana, né far lavorare i negozianti o i dipendenti dei centri commerciali durante le feste 7 giorni su 7. Bisogna piuttosto investire nella tecnologia e avvicinare le aziende italiane all'e-commerce. Chi vuole un approfondimento, la campagna elettorale per conquistare chi teme innovazione e il fondo di Vico. Allora ci stiamo avvicinando alla pagina delle spigulature dell'economia, ci fermiamo ancora una volta e poi torniamo col money. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Vinci. 24 mattino. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. Gordon, se vuoi un amico prendi un cane, siamo a livelli altissimi, è la desolazione dei tempi. Allora qualcuno mi dice, ma che cavolo di paragone è Bergamo, come se vincesse un sindaco disobbediente a Bergamo? Ma non c'è un'offesa, è il paradosso, è il contrario, parlavo dell'Alabama. Allora se vuoi è come se a stesso San Giovanni vincesse un sindaco di Fratelli d'Italia, e più o meno è accaduto anche lì. Però è un mondo bello perché è vario, perché arrivano le sorprese, perché tutto è diverso da come lo immaginiamo. Allora vi dicevo che la notizia del giorno, lo dicevo nella carrellata iniziale, per quel che riguarda il mondo dei soldi, è una piccola grande storia, ma grande, cioè la storia della guerra di Fiorello, Rosario Fiorello, contro il fisco. Anni di ricorso alla commissione tributaria, il tema riguarda molto le imprese italiane, cioè Fiorello che fa il suo show deve pagare l'IRAP oppure no? Perché lui gira per l'Italia con una segretaria, ha due collaboratori testi che gli scrivono i testi, e secondo il fisco si trattava di una impresa e quindi doveva pagare l'IRAP. Ebbene, uno, ammetto, mi è troppo simpatico Fiorello perché lo ritengo una delle incarnazioni del talento italiano. Due, mi sembra molto verosimile la sua tesi. Dov'è l'impresa? Dove sono le fabbriche, i dipendenti, l'ufficio? È uno show e per fortuna, cronache del Corriere della Sera, pagina 31, Fiorello batte il fisco, non dovrà pagare la tassa sui suoi show, o solo la truccatrice, e vince in Cassazione. Allora, bello il pezzo di Ilaria Sacchettoni che affonda in questa storia, la valigia dell'attore è quasi simbolica, Rosario Fiorello viaggia leggero, anche i giudici della Cassazione ne riconoscono, è ingiusto supporre che un'attività produttiva di ingenti guadagni come i suoi show in giro per l'Italia comporti tout court gli obblighi fiscali di un'azienda. Uno spettacolo può non essere un'impresa, specie se l'artista fa conto su poche figure, nel suo caso una truccatrice. Amo la truccatrice di Fiorello! E vabbè. Oh, lo sapete che a Tokyo c'è una scimmia in fuga sui tetti? Questa è bella, e nel tempo di quelli che muoiono facendo i selfie c'è una scimmia che vaga, un piccolo King Kong sui tetti di Tokyo. E tante cose però di economia, tante cose importanti. Sul Sole, pagina 6, questo è un approfondimento, però è di quelli che ti aiutano a capire qualcosa. C'è l'effetto Amazon e stiamo parlando del Sole a pagina 6. L'effetto Amazon è addirittura un effetto economico sull'inflazione. Così la diffusione dell'e-commerce deprime i prezzi al consumo e complica il lavoro ai banchieri centrali. Un bel raccontone di Andrea Franceschi. L'avvento del web ha trasformato radicalmente le nostre abitudini al consumo, e lo sappiamo. In un mondo pre-internet, quando c'era da cambiare il televisore, bisognava andare al negozio, farsi consigliare e infine scegliere fra un ventaglio di opzioni immensamente meno ampio di oggi, 2-3 modelli. Con internet, scrive Franceschi sul Sole, e soprattutto con la trasformazione dell'e-commerce, il fenomeno di massa è totalmente cambiato. Basta una rapida ricerca fra centinaia di siti che offrono analisi comparative sui prodotti in questione per farsi un'idea del modello giusto. Io sarò antimoderno, voglio dare un torto a Oscar, a me questa idea dell'America che arriva il drone e ti catapulta il pacco sul tetto di casa mi pare una follia. Andate al negozio, parlate col commerciante, fatevi un'idea, poi se volete andate su internet. Ma perché uno, se ce l'ha di fronte, deve andare col drone e farsi spedire il televisore? Antimoderno, sì, orgogliosamente su questo. Viva la socialità del commercio, che è una cosa importante quanto l'effetto vendita. Allora, tassi. Sole, pagina 5, non si può non fare calcoli, rotte e ipotesi per qualunque impresa si faccia, dal mutuo a un grande investimento, se non si riflette su questo. Sta forse cominciando un'onda? I tassi americani salgono dello 0,5, allora pagina 5 dello 0,25, raggiunto l'accordo fra Camera e Senato sulla riforma, Valzania ce lo racconta, il Sole, pagina 5. Janet Yellen ha chiuso il suo mandato alla guida della Federal Reserve con un rialzo dei tassi interbancari, tenendo ferma la strategia di cauta normalizzazione della politica monetaria per accompagnare la ripresa dell'economia statunitense. Questo è importante quasi quanto la decisione. Il fondo per dare un'interpretazione di questo, Donato Masciandaro, sempre a pagina 5, quando a decidere sono politica e finanza. Sul Corriere c'è la deposizione di Zonin davanti alla commissione per le banche. Certo che questa commissione per le banche dovrebbe essere una commissione, che ne so, di inchiesta sui danni, no, quelle cose di gerontologia, ecco, perché curiosamente quando salgono là non ricordano più nulla. E il caso di Zonin, una deposizione, Andrea Ducci molto sobriamente però lo scrive, costellata di tanti non ricordo, e non ricorda niente. Va bene, mitragliata. Bello di aver messo in difficoltà, ma con grande umiltà, una squadra come l'Inter, no? Ieri a un certo punto, nei tre cambi che ha fatto il mister Spalletti, sono entrati 250 milioni di euro in campo. Nei miei tre cambi sono entrate 250 mila lire delle vecchie lire. Che bello! Le 250 euro del Pordenone contro i 250 mila euro dell'Inter. È poetica. E allora attenzione, perché vi racconto che sono diventati un fenomeno social, sempre dal Sole, il gruppo di ragazzi che hanno promosso il Pordenone con una campagna web fenomenale, e lo slogan era "mai stati in B", nel senso che non sono mai arrivati alla B, non che non sono mai retrocessi. E vi dicevo, sempre sulle notizie interessanti, a Mestre, pensate, convocato un invalido di 80 anni per la revisione della perizia di invalidità. Sì, però dei pirla, signori, perché aveva una gamba tagliata, cioè lo chiamano per dirgli ha avuto progressi nella sua invalidità, ma se ha la gamba tagliata che progressi può avere? E infine Libero, pagina 2, un dato sociologico interessantissimo: 800 milioni di euro sono gli italiani che mantengono amici e parenti senza soldi. È l'Italia del prestito, signori, e ci fermiamo, torniamo con i cani e coi gatti.